piano. Di Enrico Ruggeri. Il percorso di crescita dell'uomo è stato agli inizi molto graduale, milioni di anni per inventare il fuoco, migliaia di anni per inventare la ruota, poi a un certo punto tutto è andato accelerando fino al Novecento, che è il secolo che sicuramente ha segnato l'umanità più di qualsiasi altro periodo, perché nel Novecento in maniera vertiginosa, se lo confrontiamo con le scoperte fatte in precedenza, nel Novecento sono state fatte invenzioni che non sarà mai possibile uguagliare, quantomeno nel numero, invenzioni che hanno cambiato in maniera radicale le nostre vite: l'energia elettrica, la radio, il televisore, l'aereo, il computer, il frigorifero, la lavatrice, il navigatore e adesso lo smartphone. Insomma, invenzioni che hanno velocizzato, che hanno reso molto più semplice la nostra vita di tutti i giorni. Le cose che ci circondano, che noi usiamo regolarmente, sono state inventate nel Novecento. Senza queste cose noi saremmo perduti, perché ormai siamo troppo abituati a usarle, non si torna più indietro e tutto viene dato per scontato. E poi ci sono anche invenzioni considerate minori, oggetti di poco valore, che magari si comprano con meno di un euro, ma che posseggono un valore intrinseco enorme, perché sono state una svolta, proprio come l'invenzione del nostro protagonista di oggi. Un oggetto che possediamo tutti, anzi più di uno ne possediamo, non gli diamo più valore, lo compriamo, lo perdiamo, lo lasciamo in giro, eppure senza questo oggetto avremo grosse difficoltà. E non è detto che se questo oggetto non fosse stato inventato il corso della nostra evoluzione sarebbe stato quello a cui siamo arrivati adesso. Il nostro protagonista di oggi si chiama Laszlo Biró. Se togliete l'accento al suo cognome avrete subito ben chiaro quale sia stata la sua geniale e irrinunciabile invenzione, perché Biró senza accento è Biró, la penna Biró. 23 ottobre 2003. Sto scrivendo questi appunti a bordo della navicella spaziale Soyuz usando una penna a sfera da 4 soldi. Perché è importante questa cosa? Perché mi avevano detto che una normale Biró commerciale non poteva funzionare nello spazio, e invece no. Scrive perfettamente. Si può proprio dire che la penna sfera sia un'invenzione spaziale. Queste poche righe sono scritte sul libro di volo della Soyuz TMA-2, partita dal cosmodromo di Baikonur nell'ambito della missione di cambio equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, un progetto congiunto tra americani e russi, avamposto permanente della presenza umana nello spazio. E a scrivere era Pedro Duque, un astronauta spagnolo della ESA, la European Space Agency. E aveva condotto un esperimento assolutamente informale, un esperimento che dimostrava come non fosse indispensabile una penna pressurizzata per poter scrivere in assenza di gravità. È più che sufficiente quella che lui definisce una penna a sfera da 4 soldi, una normalissima Biró. Ma l'astronauta spagnolo forse non sapeva a chi doveva dire grazie per quella penna da 4 soldi, e allora ci pensiamo noi a raccontare la storia che sta dietro alla Biró, un oggetto comunissimo che troviamo in tutte le case e che senza ombra di dubbio è una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi. Eh sì, perché prima della Biró si scriveva con il calamaio, si intingeva la penna nel calamaio, al massimo c'erano le grandi novità che erano le penne stilografiche, quindi macchie di inchiostro e cose del genere, difficoltà, lentezza nello scrivere, e ci voleva qualcuno. Questo qualcuno è Laszlo Joseph Biró, nasce a Budapest il 29 settembre 1899, siamo nell'odierna Ungheria, che in quegli anni però faceva parte dell'impero austro-ungarico. Lui nasce in una famiglia di origine ebraica, si chiamano Schweiger, poi cambiano nome per evitare di essere perseguitati, e Laszlo ha un fratello che si chiama Gheorghi, e sono due ragazzini molto in gamba, che hanno qualcosa di più dei loro coetanei, soprattutto hanno questo pallino, il pallino delle invenzioni, e vogliono e amano pensare a oggetti che non esistono ma che potrebbero facilitare la vita di tutti tutti i giorni, e peraltro è un sodalizio loro che li porterà negli anni a ideare più di un'invenzione geniale, per esempio un prototipo di lavatrice, una serratura anti-scassinamento, un vetro resistente alle alte temperature, perfino un cambio meccanico automatico per le auto. Quindi, come vedete, tutti embrioni di invenzioni che poi troveranno la loro realizzazione più avanti. Insomma, sono due ragazzi decisamente geniali. Laszlo è un ragazzo poliedrico, inizialmente studia medicina, si interessa all'ipnosi, che era una tecnica che già allora godeva di grande popolarità, e lui ha dei poteri ipnotici particolarmente sviluppati. Molti medici cominciano a avvalersi della sua capacità nel trattamento dei propri pazienti, questo lo porta a guadagnare molto. A un certo punto lui si stufa della ipnosi e può permettersi di dedicarsi a attività più piacevoli, diventa pilota di automobili, agente di borsa, pittore di quadri surrealisti, scultore, giornalista, insomma è palesemente un curioso e un irrequieto. Sarà proprio la professione di giornalista che farà scattare in lui quell'idea destinata a rendere il suo nome sinonimo di un oggetto straordinario, uno dei più venduti al mondo, che noi usiamo tutti i giorni, adesso un po' meno per la verità, ma comunque non potremo rinunciarvi, è la penna Biro. Bisogna tenere presente che in quegli anni la vita di tutti i giorni era ovviamente molto diversa dalla nostra. I panni si lavavano a mano, non esisteva il frigorifero, i cibi si conservavano nella ghiacciaia. Qualcuno di noi ha avuto qualche nonno, qualche nonna che ancora chiamava il frigorifero ghiacciaia, sicuramente. E l'illuminazione nelle case era data dalle lampade a petrolio, l'analfabetismo era molto elevato. Adesso stiamo tornando ad avere un analfabetismo, gli analfabeti funzionali, come si suol dire. Però insomma, perfino nell'Ungheria, che faceva parte dell'impero austriaco, e che l'Ungheria che si vantava di essere all'avanguardia in tutto rispetto agli altri paesi europei, il 33% della popolazione non sapeva leggere e scrivere, e quelli che scrivono cosa usavano? Lo dicevo prima, la penna d'oca, ma senza piume, perché le piume venivano tolte per maneggiarla meglio. Insomma, la penna intesa come strumento di scrittura deve il suo nome alla penna d'oca, che veniva accoppiata al calamaio contenente l'inchiostro, ed era il mezzo di scrittura più diffuso nel mondo fino ai primi del Novecento. Io mi ricordo che da bambino la maestra ci faceva fare qualche esercitazione con la penna e con l'inchiostro, ed era un disastro di macchie, di disagi, eccetera. Poi immaginiamo quelli che dovevano usare in viaggio l'attrezzatura per scrivere, era un sistema di scrittura veramente precario, difficoltoso, ci voleva il tampone per asciugare l'inchiostro. Immaginate poi uno che magari voleva scrivere per strada su un mezzo di locomozione. Insomma, scrivere era un problema non indifferente. Poi arrivano i pennini d'acciaio, ma anche lì la scrittura con l'acciaio era molto meno morbida rispetto alla penna animale. Insomma, non si risolvevano i problemi dell'inchiostro liquido sopra il foglio. Poi arriva la penna stilografica verso la fine dell'Ottocento. Qualcuno ce n'è ancora, qualcuna in casa, magari regalata al matrimonio o alla comunione. Non c'era più il calamaio, ma comunque stiamo parlando di strumenti costosi che hanno bisogno di pulizie frequenti, con l'inchiostro che tende a seccarsi, a ostruire il pennino. E poi insomma la penna stilografica era considerata già allora, e lo è tuttora, uno strumento di elite, un bene di lusso. Per la scrittura popolare il mezzo tradizionale rimaneva il pennino col calamaio, e i banchi delle vecchie scuole avevano ancora l'alloggiamento per il calamaio. Mancava questo strumento pratico, economico, trasportabile, versatile come la matita, ma non cancellabile come la matita. E allora andiamo dal nostro Laszlo Biro. Lui sta facendo il giornalista a Budapest tutti i giorni, va a piedi da casa sua alla sede del suo quotidiano, per il quale scrive nella circoscrizione di Újpest, cioè dall'altra parte del Danubio. Quando arriva trova sulla scrivania gli strumenti del suo lavoro, e ancora non c'è la macchina da scrivere, che è ancora una rarità, non c'ha una stilografica. Insomma, trova i fogli bianchi, la penna col pennino di ferro e il suo bel calamaio con l'inchiostro, e tutti i giorni il problema è sempre lo stesso: scrive, gli capita di macchiare il foglio, di dover ricominciare da capo. È un problema comune, lui lo sa bene, e lo sanno bene tutti i suoi colleghi e tutti quelli che sono a casa, a scuola. C'è poco da fare, le penne col pennino vengono intinte nel calamaio, lo inchiostro gocciola, e non è raro in quei tempi vedere persone di tutte le età con le mani macchiate di nero. guardando quella gran quantità di carta macchiata d'inchiostro gettata nei cestini, pensando che lo stesso accadeva in tutti gli uffici, nelle scuole, ovunque ci fosse gente che scriveva anche solo la lista della spesa, mi convinsi che dovevo trovare una soluzione. Ma lui è un inventore, Laszlo Biro, e per lui, come per chiunque, ma per lui forse un po' di più, vale il famoso detto che non sono le cose che contano, ma l'occhio con il quale le guardi. A Budapest, dove lui abita, ci sono molti bambini che si divertono a giocare tra i resti archeologici di Aquincum, che è la capitale della Pannonia, la frontiera più settentrionale dell'impero romano. Siamo negli anni 20, le automobili che circolano sono poche, i genitori mandano i loro bambini in giro, i giochi sono quelli di quei tempi: la palla al cerchio, i quattro cantoni, il nascondino, le monete tirate contro il muro. E poi ci sono anche le biglie, che sono uno dei giochi più diffusi. E una mattina succede qualcosa: ha piovuto nella notte, il sole splende, ma ci sono ancora delle pozzanghere. Un gruppo di ragazzini sta facendo una gara di biglie. Hanno la possibilità di giocare in grandi spazi, i bambini costruiscono piste lunghe, le palline che rotolano lungo la strada, il nostro protagonista che a momenti ci mette un piede sopra, e poi qualcosa attira la sua attenzione. E questo è il classico colpo d'ala, perché lui ha un'intuizione. E se Biro non avesse fatto quella strada, se i bambini non avessero giocato lì, se quella notte non avesse piovuto, forse la storia avrebbe avuto un altro corso. Le biglie rotolano lungo la strada, passano tra i piedi di Biro e una attira la sua attenzione. Una biglia sul suo percorso ha incontrato una pozzanghera, è finita dentro, è uscita e si è lasciata dietro una scia d'acqua. Niente di strano, è una pallina che rotola in una pozzanghera. Però per una mente intelligente, vigile, attenta, fantasiosa, che però è focalizzata su un problema che lo sta assillando fin da piccolo, quella non è una pallina che rotola, quella è la punta di una penna enorme tenuta dalla mano gigantesca del destino, perché sta scrivendo il destino sul foglio della vita qualcosa di straordinario. Quello che sta accadendo quel mattino di primavera del 1920 in quella strada di Budapest riguarda tutti noi. Laszlo Biro vede davanti ai suoi occhi la soluzione al problema della scrittura. È già, perché la pallina piena di acqua piovana che è trascinata nella sua corsa ha lasciato sull'asfalto asciutto una traccia visibile. Quella pallina gli suggerirà una delle invenzioni più importanti e geniali del Novecento, la penna a sfera. Questo ragazzo, il giovane Biro, è concentratissimo, pensa a una piccolissima sfera posizionata sulla punta della penna al posto del pennino, una sfera che trascini con sé l'inchiostro che gli arriva da un serbatoio all'interno della penna stessa. È una cosa semplicissima, come tutte le cose geniali. Laszlo Biro torna a casa, racconta subito a suo fratello quello che ha pensato, vede il fratello illuminarsi perché è un'idea straordinaria. Giorgi, il fratello, è un chimico, si pone subito i primi problemi, quello della viscosità dell'inchiostro, che deve essere scorrevole per non formare dei grumi sul foglio, quei grumi che già l'inchiostro di quel tempo formava in abbondanza, e questa già è una cosa difficile da raggiungere. E insomma, le buone idee poi non è che sempre trovano subito la loro strada, passano gli anni, però né Laszlo né suo fratello riescono a venire a capo di qualcosa. Intanto nel mondo tutti continuano a scrivere con il pennino, il calamaio, e a macchiare centinaia di migliaia di fogli con l'inchiostro. Non è ancora il momento. Laszlo prova a realizzare la sua penna sfera, non ci riesce. Ogni volta che accenna la cosa con qualche produttore, la risposta è sempre la stessa: non funzionerà, è una follia. Ma è così difficile produrre la penna a sfera? E a quanto pare sì, perché bisogna pensare a come viene costruita oggi. Ecco cosa scrive Mel Rochelet, che è un tecnico collaudatore francese che è un esperto di penne biro e stilografiche. Il cuore di ogni penna a sfera è una minuscola pallina metallica, levigata con estrema precisione, in grado di trasferire sulla carta l'inchiostro denso e oleoso contenuto nel serbatoio della biro. Perfettamente sferica, prodotta generalmente in acciaio dolce e inossidabile, questa pallina ha un diametro di appena un millimetro ed è molata con un margine di errore inferiore al 100.000° di millimetro. Realizzata anche in tungsteno e carbonio, a volte può essere volutamente ruvida per migliorare l'attrito con la carta e con l'inchiostro da stendere sul foglio. Eh già, non è una cosa semplice. Biron non si demoralizza, crea da solo a mano il suo primo prototipo di penna e inserisce sulla punta di questa penna una minuscola pallina metallica. Il fratello sviluppa una formula di inchiostro vischioso a rapida asciugatura. Insomma, si arriva a qualcosa di concreto. Il 15 giugno 1938 i due fratelli brevettano in Ungheria la prima penna a sfera. Il momento però è poco propizio per la famiglia Biro e per gli ebrei in generale, perché gli avvenimenti che stanno per portare alla seconda guerra mondiale si fanno sentire anche in Ungheria. Dilaga un certo antisemitismo. I Biro si trasferiscono prima a Parigi, poi nel 1940, quando la Francia viene invasa, scappano in Argentina. Il falco e il gabbiano. Il nostro geniale protagonista di oggi è Laszlo Biro, giornalista, inventore ungherese che negli anni 20 decide di trovare una soluzione ai metodi di scrittura che erano tutti macchinosi, poco efficienti, e poi c'erano le macchie d'inchiostro, insomma ne abbiamo già parlato diffusamente. E lui un giorno osserva dei bambini che giocano a biglie per strada e ha questa intuizione felice, cioè capisce che il meccanismo che sta alla base del funzionamento della penna sfera è piuttosto semplice. La sua idea è fantastica: creare appunto una sfera che in qualche modo crei una scia di colore, cioè di inchiostro, e nasce così la Biro, che diventerà una delle invenzioni più straordinarie al mondo, un oggetto semplice e efficace che cambierà radicalmente le nostre vite. E siamo arrivati al 1940 col nostro racconto, con l'Europa in subbuglio, con la famiglia Biro che fugge dall'Ungheria, poi dalla Francia, va in Argentina, paese che accoglie molte famiglie come la loro. La guerra in Argentina è lontana, non viene percepita, insomma è un luogo sicuro, e dalla sua nuova casa di Buenos Aires Biro continua a pensare alla sua invenzione, alla sua ossessione. Forse per molti può essere considerato un sognatore, ma forse sono proprio i sognatori che fanno la storia. La penna a sfera continua a essere al centro dei suoi pensieri. È certo che se riuscisse a farla conoscere al mondo sarebbe un successo, e la sua testardaggine fa breccia nei dubbi di un suo amico, si chiama Juan George Main. Lo aveva aiutato a fuggire dall'Europa e con lui fonda una società, la Biro Main Biro. Alla fine, il 17 giugno del 43, Laszlo Biro brevetta in Argentina un prototipo di penna a sfera. Brevetto US 2413904A. Strumento per la scrittura. L'invenzione comprende un condotto di alimentazione sufficientemente largo da consentire un flusso abbondante dell'inchiostro, ma in prossimità della sfera il condotto si riduce notevolmente fino ad assumere una natura capillare. L'inchiostro vischioso viene ad alimentare così la sfera nella giusta quantità necessaria alla scrittura grazie alla forza di gravità. Come indicato nel disegno occluso, il condotto e il serbatoio dell'inchiostro sono racchiusi all'interno del corpo che forma di fatto lo strumento stesso di scrittura. Beh, alla fine la descrizione del brevetto non è altro se non la descrizione di una comunissima e semplicissima penna Biro. Quella che oggi per noi è una comunissima e semplicissima penna Biro, in realtà per ora non lo è affatto. Stiamo parlando di una grande intuizione, di un'invenzione geniale. Però l'idea per il momento non ha successo, bisogna aspettare l'anno dopo. Arriva un commerciante inglese, si chiama Henry Martin, e capisce queste potenzialità, le potenzialità della penna sfera, la segnala al Ministero della Guerra del suo paese. L'invenzione viene compresa, il governo britannico acquista da Laszlo Biro la licenza, produce penne a sfera in Gran Bretagna e ne realizza 30.000 esemplari che verranno distribuiti ai piloti dell'aviazione militare, anche perché ad alta quota la penna Biro è uno strumento migliore decisamente della stilografica, è più pratico, è più sicuro. E nel 45 Biro dà finalmente il via alla produzione, diciamo, per usi civili delle sue penne a sfera. E siamo in Argentina, sono passati 25 anni da quella mattina di Budapest nella quale aveva visto la biglia rotolare dentro una pozzanghera e lasciare il tratto nero distinto di acqua sull'asfalto. In un primo tempo lui non trova il nome giusto per il suo prodotto, prima lo chiama Ether Pen, poi Strato Pen, sono nomi che non rendono. Poi quello definitivo arriva in maniera quasi naturale, Birome, acronimo di Biro e Maine. Pensate che questo nome in Argentina resiste ancora oggi, loro la penna sfera Biro la chiamano Birome. Il fatto che Laszlo Biro inizi a produrre le sue penne però non deve trarre in inganno, la Biro, lo Birome all'Argentina non è ancora una penna per tutti, i costi di produzione sono elevati, insomma è un prodotto di elite, l'esatto contrario di quello che è oggi. Le intuizioni pionieristiche di Biro non vengono seguite da un successo commerciale e lì il costo lo puoi abbassare solo se ne vendi tante, non è ancora il momento. Quindi c'è anche, come dire, una fase nella quale questa idea rivoluzionaria potrebbe rimanere l'illusione di un inventore visionario. E si dice che siano pochissime le persone capaci di avere una grande intuizione e però di renderla anche un successo economico, di trasformare la loro intuizione in qualcosa di redditizio. Ci sono migliaia di esempi nella storia di inventori truffati da quelli che hanno saputo gestire dal punto di vista imprenditoriale le loro idee. Ricordatevi per esempio Nikola Tesla, gli abbiamo dedicato un'intera puntata. Anche se non vengono truffati, spesso questi inventori sono dei sognatori, non dei pragmatici, diventano incapaci di trasformare le loro grandi idee in guadagni comparabili alla grandezza delle loro invenzioni. Bene, Laszlo Biro non fa eccezione a questa spietata regola, è demoralizzato da anni e anni di tentativi, è provato, è un po' in ginocchio economicamente anche perché i soldi ottenuti dalla vendita del brevetto in Gran Bretagna li ha già spesi tutti per portare avanti la sua azienda. Insomma, ha in mano una miniera d'oro ma non sa come fare a estrarre questo oro, rischia la povertà. Intanto in Europa c'è qualcuno che è molto, ma molto più abile di lui negli affari, qualcuno che cambierà le sorti del nome Biro. Le nostre vite stanno diventando sempre più veloci. Non possiamo essere rallentati da pennino e calamaio. La gente deve poter dominare gli oggetti, non esserne dominata. Ecco perché è urgente trovare nuovi sistemi di scrittura, rapidi e sicuri. E non solo. Il mondo sta per schiacciare sull'acceleratore. Questi sono gli appunti annotati sull'agenda, appunti fatti ancora con l'inchiostro, sull'agenda di un signore molto distinto. È un barone di origine italiana, è nato a Torino, la sua famiglia è di Châtillon in Val d'Aosta, è naturalizzato francese e vive a Parigi. Questo barone produce appunto penne stilografiche di grande valore. Un giorno, mentre sta effettuando alcuni ordini di inchiostri speciali a un fornitore, nota che l'uomo sta scrivendo con una strana penna, una penna che lui non aveva mai visto prima. Il tizio gli mostra quell'oggetto, è la penna sfera di Biro. Lui è un commerciante d'inchiostro, fa la spola tra Argentina e Europa, si è fatto regalare da Biro uno di quei prototipi di penna sfera e il barone la vede, si illumina. Ecco quello che sta cercando da anni, la grande idea che può rivoluzionare il sistema di scrittura. Questo barone si chiama Marcel Bic ed è un grande affarista, B-I-C-H. Capisce cosa può esserci dietro a quel incredibile prototipo che ha appena visto. Non perde tempo, parte subito per l'Argentina. E il barone Marcel Bic incontra l'inventore di quell'oggetto straordinario che lo ha tanto colpito. La conversazione tra Bic e Biro si svolge in tempi veloci. È un lungo viaggio, corrisponde a una determinazione molto ferrea del barone Bic. Lui propone a Biro di acquistare il suo brevetto. È una grande idea, però ci vogliono altri approfondimenti, bisogna migliorarla, insomma ci vogliono i soldi, bisogna avere alle spalle un'azienda che possa produrre su vari vasta scala, perché, come dicevo prima, per abbassare il prezzo e ottimizzare i costi bisogna venderne tante di queste penne. È un discorso che non fa una piega. Miro lo capisce subito, perché sono anni che cerca di produrre la sua invenzione e non ci riesce. E poi c'è un altro problema: il contratto che il barone propone a Biro fa gola, perché Biro è in ristrettezze, sta finendo i soldi, forse li ha già finiti. Insomma, Biro accetta. È il 1948, la Biro diventa Bic. Il falco e il gabbiano. E così il barone Marcel Bic acquista da Laszlo Biro il brevetto della penna a sfera. L'ha un po' preso per la gola, questo va detto. Biro è in ristrettezze economiche, aveva già investito tutto il suo denaro per questi tentativi vani di commercializzare su vasta scala la sua invenzione, non c'era riuscito. Insomma, alla fine cede al barone, che si appropria del brevetto al 100% e lo porta in Europa, a Parigi. Insomma, da un lato può anche non suscitare tutta la nostra simpatia questo Bic, questo signore che arriva con tanti soldi, compra l'idea di un altro che in quel momento ne ha bisogno. È un'idea che lui capisce di essere un'idea straordinaria. Però bisogna anche dire che il barone è un gran lavoratore. Intanto la compra e non la ruba, cosa che invece per tante altre invenzioni era capitato. E poi anche lui diventa, come dire, parte di questo progetto, di questa missione, comincia a studiare, comincia a perfezionarla, getta nel cestino centinaia di prototipi, impegna inchiostri di diversa viscosità. Insomma, è anche lui un lavoratore, non è un parassita, è instancabile. E alla fine, nel 1950, è pronta la sua penna a sfera. Si chiamerà Bic, viene eliminata l'H finale dal suo cognome, il suono che ne deriva è corto, è facile da ricordare, non lo si può dimenticare. Il suo viaggio nell'innovazione è proseguito. Ha salutato Biro, ha avuto anche lui un'idea geniale. Forse l'idea è quella di creare un prodotto che è quasi un usa e getta, anzi diventa un usa e getta, con l'anima di inchiostro che una volta esaurita si butta via e si compra un'altra penna. Tanto ormai la Biro, anzi devo dire la Bic, costa solo 50 centesimi di franco. Basta con le penne d'oro intarsiate di lacca. Basta con questi oggetti preziosi che costano tanto e sono per pochi. Useremo la plastica trasparente. Così chi scrive saprà esattamente quanto ancora può lavorare. I bassissimi prezzi di vendita ci garantiranno un successo planetario. Eh sì, il barone sa come fare. Dopo 3 anni, nel 1953, la Bic Crystal, quella che conosciamo benissimo ancora oggi, che è rimasta praticamente invariata da allora, è stata venduta nel mondo già in oltre 40 milioni di esemplari. Non è niente, lo sapete, la conoscete, è una sottile anima di plastica che contiene dell'inchiostro vischioso al punto giusto, agganciata a una punta con la famosa biglia di Biro. È il tutto racchiuso in una cannuccia trasparente. A quel tempo i banchi sono ancora inclinati e quindi la sezione è esagonale, non rotonda, per non fare scivolare giù la penna. Questo Bic pensava proprio a tutto. E saranno geniali anche altre invenzioni firmate da Bic, che quindi in qualche modo, come dire, legittimeranno anche quella della penna, perché Bic poi, lo sapete, comincia a inventare rasoi e accendini. La filosofia Bic è sempre la stessa: usa e getta. Laszlo Biro in tutto questo vede il grande successo della sua invenzione, ma naturalmente non percepisce più nessun guadagno, perché il brevetto lui lo ha venduto, è di proprietà al 100% del barone Bic. A lui non spetta nulla. La sua consolazione, se così si può dire, è rendersi conto quotidianamente che la penna a sfera da lui inventata è un oggetto di uso quotidiano, diffuso a livello globale, è un oggetto democratico, chiunque può permettersi di acquistare. È anche un oggetto che, al di là del suo valore effettivo, cioè quasi nulla, acquista un significato intrinseco altissimo. C'è stato un periodo in cui in Brasile le penne Bic si sono usate come moneta di scambio. I ragazzini di Bombay le chiedevano per la strada ai turisti durante la guerra fredda. Oltre la cortina di ferro, la penna a sfera era considerato un dono prezioso, quasi un passepartout per avventure erotiche come le calze di nylon. che sia di marca Bic o no, oggi la penna sfera è uno dei beni di consumo più radicati nella storia recente dell'umanità, è forse al primo posto, o almeno assieme ai jeans, alla Coca-Cola. Si calcola che dall'anno in cui è stata messa in commercio di penne Bic o comunque di penne a sfera ne siano stati venduti 100 miliardi di esemplari. Intanto l'Aslo Biro, non sappiamo se mangiandosi il fegato o fiero di sé, prosegue nella sua vita piuttosto modesta, lavora per il governo argentino per conto del quale studia l'uranio arricchito, e lo fa fino alla sua morte avvenuta a Buenos Aires il 24 ottobre 1985. La consolazione però che la sua anima può avere è che chiunque ha bisogno di una penna e non ce l'ha si rivolge a qualcuno e gli dice: scusa, hai un Biro? E così lo nomina, e questo è il suo colpo d'ala che si perpetua negli anni, minuto dopo minuto, in tutte le parti del mondo. Insomma, il nome di Laszlo Biro, cambiando solo un accento, rimarrà per sempre immortale. Ci sono colpi d'ala che fanno il bene dell'umanità forse più di quanto abbiano fatto il bene di colui che il colpo d'ala l'ha compiuto. È il caso del nostro protagonista di oggi, Laszlo Biro. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, scrivete ai nostri social, ai miei social, se volete sapete dove trovarmi. Ciao! E questo è il rumore della mia penna Biro, ce l'avevo in mano. A lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.